tendre, bobo, when I roll. In bicicletta a Central Park, sulle strade di New York City, la stella di John Lennon, disegnata sui marciapiedi, è nuda che sei più bella, è nuda che ti voglio, stella, arrampicarmi sulle tue vene come un cavallo senza briglia, da Firenze a Bologna, gli Appennini sono la culla del rinascimento di tutti i sensi, erotici venti, quando apri la tua bocca, scintillano le tue labbra, tutto il resto non conta nulla, tutto il resto è un fuoco di paglia. Abbracciami amore mio, fammi volare, sono tuo, insieme siamo il cielo del grano, Venere, Giove, Parigi, Milano, non abbiamo bisogno di nessuno per far partire il nostro treno, né Viagra né di tanto meno, sono due diamanti, il tuo culo, il tuo bel seno. Michelangelo, a 90 anni, ha scolpito capolavori. Pablo Picasso, cubista, ha fatto miracoli con i colori. Prévert ha scritto poesie, dopo anni di gavetta. Beethoven era pure sordo, ma ha tracciato una nuova rotta. Abbracciami, amore mio, fammi volare, sono tuo, insieme siamo il cielo del grano, Venere, Giove, Parigi, Milano, non abbiamo bisogno di nessuno per far partire il nostro treno, né Viagra né di tanto meno, sono due diamanti, il tuo culo, il tuo bel seno. Abbracciami, amore mio, fammi volare, sono tuo, insieme siamo il cielo del grano, Venere, Giove, Parigi, Milano, Matusalemmi di ipocriti bastardi, chiudono porte a chi è avanti negli anni, ma il vino è buono solo quando nelle botti, ci resta tempo, troppo giovane, non ha gusti. Tua carezza, mi bambina, che per me sei primavera, e del tempo che passa chi se ne frega, l'amore non ha età e il sesso è puro quando si ama. Abbracciami, amore mio, fammi volare, sono tuo, insieme siamo il cielo del grano, Venere, Giove, Parigi, Milano, non abbiamo bisogno di nessuno per far partire il nostro treno, né Viagra né di tanto meno, sono due diamanti, il tuo culo, il tuo bel seno. I poeti cantano l'amore, ma anche il corpo vuole la sua parte migliore, e spesso nel connubio impera la tua luce nella sera, quando le viscere della terra hanno sete guardano il sole. La nostra pianta cresce splendente, se sappiamo dargli la sua voce. Abbracciami, amore mio.